Da martedì era stata lanciata dal nodo sociale antifascista, poi seguito da molte realtà antifasciste autogestionarie bolognesi, era stato lanciato il presidio per le 18:30 per contrastare la venuta di Fiore in città. Questa mattina, a mezzogiorno e mezzo, in un gruppo molto nutrito di compagni e compagni, siamo riusciti a prendere la piazza e in questo momento ci troviamo qua in piazza Galvani con striscioni, megafoni e tutto quanto, cercheremo di mantenere la piazza fino a questa sera, impedendo così di fatto con l'uso dei nostri corpi l'agibilità ai fascisti. Fino all'ultimo si è sperato che le autorità, come dire, vietassero la manifestazione di Forza Nuova, così non è stato e, come dire, avete pensato di farlo fisicamente. Sì, esatto, noi sapevamo che non sarebbe stato vietata la manifestazione, anche perché Forza Nuova è iscritta alle liste elettorali, nonostante poi problemi di falsificazione delle firme che sono venuti fuori nell'arco della campagna elettorale. Comunque, secondo noi, quando la legge è sbagliata è necessario anche infrangerla, nel senso che Bologna è una città con un'anima fortemente antifascista e non è accettabile che questi personaggi si presentino da noi. A proposito di legge, secondo te perché non viene messa fuori legge, non viene sciolta Forza Nuova, visto che le leggi ci sono? Su questo c'è forse da fare un discorso storico, nel senso che fin da dopo la fine delle ostilità, la fine della lotta di liberazione, in realtà all'interno degli apparati polizieschi e dello Stato non c'è mai stato un vero e proprio cambiamento, una vera e propria pulizia dei questori e dei prefetti, che sono rimasti gli stessi, e quindi c'è una continuità all'interno delle forze istituzionali che impedisce di fatto l'applicazione della Costituzione. Se non vado errato, per la manifestazione di oggi sono stati mobilitati 400 agenti. Temete che possano tentare di sgomberarvi? Beh, noi adesso siamo in piazza da un paio d'ore e sta continuando ad affluire polizia. Contiamo di allargare ancora il presidio. Adesso siamo quasi 200 persone. Speriamo in questa maniera di scongiurare questa eventualità.